non la sai, taratata, non la sai, taratata, taratata. Credo asilo. Secondo me è nevrite. Dici? Mm. Ma la nevrite o la... aspetta, come si chiama quella che viene anche nevrite, ai denti? Nevrite, no, no, nevrite, nevrite. Ah! Vabbè, ma cazzo. Ah, vabbè, devi stare seduto, ah, abbi pazienza. Yeah, yeah, dopo stai in piedi, vedrai che no, ti passa, perché stando in piedi vabbè, prende un po' aria. Vedi, poi passa, bene, poi passa, improvvisamente passa, vabbè, è non così, so, è ciclica. Vabbè, comunque cominciamo parlando di calcio, quindi se vuoi allontanarti, sì, così almeno ne approfitti, sì, per sì, farti passare la nevrite, ciao, io parlerei di calcio. Allora, volevo solo confermare che qui a Chiedo Asilo quest'anno continuiamo a supportare la magica Roma, perché basta, si conferma, stai zitto, la squadra più degna dell'asilo, non perché abbia una rosa giovane, anzi, però perché la Roma è stata allenata fino all'anno scorso da Montella, che arrivava dai Pulcini, e quest'anno da Luis Enrique, che allenava i ragazzini del Barcellona, quindi ormai lo standard, stai bravo, è che ad allenare Totti e compagni ci mettono sempre dei tecnici abituati a lavorare con i bambini. Aia! E poi i litigi tra Totti e lo stesso Luis Enrique sono litigi di asilo, quindi cari amici giallorossi, se sappiate che anche se quest'anno magari si rischia la B, Chiedo Asilo sarà sempre con voi. I tifosi della Roma possono insultare Drago telefonando allo 02 46 52 4495. Ma non avevi la nevrite? Borse in disfatta. Però è sempre bello camminare per il mercatino, no? K, sì, dopo bellissimo, aver bevuto una bottiglietta d'acqua gasata che ti fa fare queste cose. Quali cose? C'è la nevrite, Drago, smettila! Va bene, allora, in mancanza di un mercato globale, noi ci accontentiamo del mercatino globale. Che non è il massimo della vita, lo sappiamo, però almeno si può tornare a casa con qualcosa nella sport. È un mercatino, ricordiamo, in cui si fa meno dei soldi. Perché i soldi ormai sono out. Non sono VIP, sono out, no, decisamente out, sì, sì. Allora, Drago, qui oggi al mercatino globale vanno fortissimo le culone inchiavabili. Ah beh, certo. E ci scusiamo per il termine, ma è una definizione che viene dall'opera apocrifa del nostro amato premier. Almeno sembra così, Vuol dire, sì, nessuno... apocrifa, infatti. Sì, comunque, apocrifa. Vabbè, di culone inchiavabili ce ne sono un sacco, sì, quindi è un rarissimo caso in cui l'offerta supera la domanda, e ciò nonostante il titolo schizza le stelle. Ma fortunato chi ce l'ha, le culone inchiavabili. Dici? Eh sì, i tedeschi sono contenti perché è proprio grazie a una culone inchiavabile che lo spread dei Bund è alle stelle. Che ne so. Non so cosa sto dicendo. Sono pratiche porno estreme, lo spread dei Bund. Ma no, è roba tedesca. Porno, ok, sì, non bondage. No, bondage, no, no, no, no, lasciamo perdere quello, okay, sì, okay. Lo comunque qualcuno in rete ha scritto la bellissima frase: lo spread dei Bund ha un pft nella m. Capito? Sì, che sì, noi quindi potremmo anche mettere in musica così. Basta. Lo spread dei Bund ha un pft nella m. Lo spread dei Bund ha un pft nella m. Lo spread dei Bund ha un pft nella m. La bella lena barabara. Parliamo col Chewing-gum. Finalmente, Drago, finalmente anche in bagno. Cosa? Il touchpad. Il bagno. Vabbè, uno se vuole si porta touch il touchpad, si siede sulla tazza. Ma, ma va. Io preferisco i fumetti, però. Una specchiera gigantesca. Touchpad. Gigantesco in bagno. Specchio, cioè, in bagno. Uno specchio che però è anche dentro, c'è anche le robe touch. Skype, sì, Facebook, esatto. Ma come? Ma dai. La radio, le tue mail, così tu la mattina vai in bagno. Sì, io. Tu io vai e ti cominci già a leggere le mail, le informazioni, sì, guardi, leggi. Tu devi vedere che bagno io, è buio, cioè, a parte che lì ci sarebbe lo schermo forse retroilluminato, quindi andrebbe bene anche al buio, però io faccio veramente in bagno, ci sto 10 minuti al mattino il meno possibile e faccio delle cose che insomma posso anche evitare di guardare il touchpad mentre faccio quelle cose. Ma la mattina in bagno per l'uomo moderno è il momento della, capito, delle terme, ma no? Chi? Ma va l'uomo moderno. L'antico romano. L'uomo moderno, l'antico romano c'è. L'uomo moderno si sveglia la mattina, va in bagno, romano, accende il touch mirror e vede un po' le notizie. Tanto si la borsa, fa barba, la borsa si mette il dopo barba, si fa tutte le, quelle cose lì, no? Che fanno, ma immaginati che fa uno, ma no, Drago, gli uomini, immaginati, non so, Alain Delon. Scusa, Alain Delon. Alain Delon. Non è che anche lui, dopo una carriera fantastica, film con i maggiori registi europei, zero vittorie all'Oscar, non è che anche lui forse... Ma cosa dici? Alain Delon è vivo. Scusa. Vabbè, prendiamo un attore più giovane, dai. Non so, uno tipo Vincent Cassel, quello che ci piace. Proprio lui. Dai, lui me lo vedo che arriva in bagno la mattina, no? Tutto sfatto. Non so, sì. Tipo di serate fa. Lui fa le serate. Feste. Lui gioielli, feste, quindi? Ostriche. E quindi arriva prima mattina, si mette sulla tazza con le ostriche, magari che le mangiate così. Sai che le ostriche non bisogna mangiare. Le ostriche con i mesi con la R. Sì, adesso giusto. Siamo a settembre. Quindi se si possono mangiare. Però noi stiamo parlando di una cosa che è successa ad agosto. Ad agosto. Noi sappiamo che ad agosto ha mangiato le ostriche. Ah, tu sai questa cosa. Ma aspetta, non bisogna mangiarle nel nome della. Ma aspetta, ma com'è? Non lo so se non bisogna mangiarle nei mesi con la R o vabbè, comunque lui le ha mangiate marce. Allora vedi, la mattina accende il touchpad. Ma poverino, il touchpad. Però si mette sulla tazza tutto basta feste. Basta. Basta ostrica. Sì, comunque basta quella roba lì che deve fare, poi c'è il touchpad, magari gli parte Skype mentre capito? E si connette anche con la videocamera Vincent Cassel, il proprio produttore. Basta feste, basta cagotta. La cagotta, basta feste. Ostrisce e poi danno la cagotta. Te lo vedi lui che basta feste, tutto bianco, basta. Che si maledice un ma mal da di solo, feste. Ma la Bellucci dov'è? Nell'altra ala del tutta gigantesca, si prende tutto a letto perché la Bellucci, non so se è presente, la Bellucci no, lei ha lo suo spazio vitale. E lui invece in bagno col touchpad, basta. Magro. Ma basta. Tutto disidratato. E lei lo chiama e dice, ma basta, un attimo, che c'ho la cagarel. Basta ostriche, che poi danno la cagarelle. Ma basta, non di Dio, ti parla. Basta anche con il flirt estivo tra il bambino Bocchino e la bambina Sabina Began. Basta. Ormai di dominio pubblico, tutti hanno letto gli sms che Bocchino mandava alla Began, tutti letti con grande curiosità da tutti gli italiani, no? Adesso. Gli italiani. Bravo, quei pochi interessati a sapere che cosa si scrivevano due personaggi minori, diciamolo, minori dello Star System. Vabbè, io ho letto tutti gli articoli sul caso, quindi io sono tra quegli italiani lì, quindi sono anch'io gli italiani. Ma io per dovere. Ma come per dovere, ma sì, Bocchino è un nostro osservato speciale da sempre, Drago. Giusto. Quindi se vedo il suo nome leggo, ma per dovere. Quindi anche tu fai parte di quegli italiani. Sì, però non è tanto, dovere. Non è tanto la storia d'amore tra Bocchino e la Began che mi ha colpito, quanto le conclusioni che ne ha tratto lei. Perché a un certo punto, intervistata da Vanity Fair, dice che Bocchino ha il suo fascino, ma è troppo stressato. Beh, è vero, ed è quello che abbiamo sempre detto anche noi qui. Stressato. E poi aggiunge sempre la Began, dovrebbe trasformare la sua rabbia in energia positiva. Sì, ma non va, perché Bocchino lo invitano ai talk show, quella cosa lì, proprio perché è aggressivo, capito? Giusto. Perché lui così scarica, anche lui garantisce l'aggressività spettacolo. Perché lui si scarica, gli fa bene. Però guarda che la bellissima Sabina Began dice che lui dovrebbe trasformare la rabbia in energia positiva attraverso il digiuno e l'agopuntura. Vabbè, ma è la formula dei Scilipoti. Certo, questa. Proprio così. Ma quindi Bocchino, per conquistare la Began, ha dovuto diventare scilipotiano. Esatto. Infatti è finita male. L'energia negativa mi sa che è rimasta negativa. E Bocchino è di nuovo single. Quindi fatevi avanti. Se ma volete. Chi, infatti? Sì, magari qualcuno a cui piace, capito? L'uomo aggressivo. E questo è quanto? Quanto, vuoi quanto? Dire? Vedi, questo ascoltatore ha deciso di mandarci un... che forse si ispira anche a Fünf e a Fnuf. Dobbiamo anche cercare di chiarire queste analogie. Quindi fatelo chiamandolo 02 46 52 44 95 e diteci se tra Fünf, Fnuf e l'avvio di Skype ci sono delle analogie e delle cose da scoprire. Grazie, ciao! Fünf, Fnuf.